Capitolo secondo. La comunità liturgica. La liturgia non dice io, bensì noi, salvo il caso in cui l'azione liturgica esiga espressamente il singolare, ad esempio quando si tratta di una dichiarazione di volontà personale oppure in talune preghiere del vescovo, del sacerdote e simili. La liturgia non è opera del singolo, bensì della totalità dei fedeli. Questa totalità non risulta soltanto dalla somma delle persone che si trovano in chiesa in un determinato momento, e non è neppure l'assemblea riunita. Essa si dilata piuttosto oltre i limiti di uno spazio determinato e abbraccia tutti i credenti della terra intera. E travalica anche i limiti del tempo, in quanto la comunità che prega sulla terra si sente una cosa sola anche con i beati che vivono nell'eternità. Solo la nota dell'universalità non esaurisce ancora il concetto della comunità liturgica. Il soggetto che compie l'azione liturgica della preghiera non è il semplice totale di tutti i singoli partecipi della stessa fede. È l'insieme dei fedeli, ma in quanto la loro unità ha un valore autonomo, prescindendo dalla quantità dei credenti che la formano, la Chiesa. Qui si presenta qualcosa di analogo a quello che costituisce la vita dello Stato. Lo Stato è qualcosa di più che somma dei cittadini, delle autorità, delle leggi e istituzioni e simili. I membri dello Stato non si sentono solo parte di un numero più grande, bensì in un certo modo membri di una vivente unità superiore. Qualcosa di corrispondente, in un ordine essenzialmente differente, nell'ordine soprannaturale, presenta la Chiesa. Essa è chiusa in sé come un sistema compiuto, come un complesso organico di manifestazioni di vita straordinariamente varie, di mezzi e di scopi, di uomini, istituzioni, leggi e simili. Essa è costituita di credenti, ma è qualcosa di più che la loro mera somma, nutrita dalle stesse convinzioni e abbracciata dagli stessi ordinamenti. I fedeli sono piuttosto stretti insieme da un reale principio comune di vita. Questa vita comune è il Cristo vivente, la sua vita è la nostra vita. Noi siamo incorporati in Lui, siamo il suo corpo, Corpus Christi Mysticum. Vi è una potenza reale che domina questa grande unità di vita che incorpora in sé il singolo, lo fa partecipe della vita comune, ve lo mantiene, lo Spirito di Cristo, lo Spirito Santo. Ogni singolo credente è una cellula di questa unità vitale, un membro di questo corpo. In molteplici occasioni il credente si rende consapevole di questa unità che l'avvolge soprattutto nella liturgia. In essa egli scorge che non sta di fronte a Dio come individualità a sé stante, bensì come membro di questa unità. È la liturgia che parla a Dio, il fedele parla con essa e in essa. E da lui essa esige che sia consapevole d'essere suo membro e tale voglia essere. Nel rapporto liturgico il singolo sperimenta vitalmente la comunità ecclesiastica. Il credente, qualora voglia celebrare con partecipazione viva l'azione liturgica, deve rendersi consapevole che egli come membro della Chiesa e la Chiesa in lui prega e agisce. Deve sentirsi con tutti gli altri fedeli una cosa sola in questa unità superiore e con essi voler formare una sola cosa. Di qui scaturisce un problema assai delicato e assai avvertito, che si può ricondurre alla questione più generale dei rapporti tra il singolo e la totalità. La comunità religiosa, come ogni altra comunità, esige dal singolo due cose. In primo luogo un sacrificio, in quanto e finché è membro attivo della comunità, egli deve rinunciare a ciò che in lui vuole essere solo per sé ed escludere gli altri. Deve dimenticare sé per essere con gli altri, sacrificare alla comunità una parte della sua autonomia e indipendenza. In secondo luogo, un contributo positivo. Si esige da lui che accolga come proprio un più ampio contenuto di vita e precisamente quello della comunità, che vi dispieghi le sue energie, che lo porti nella coscienza, vi consenta e lo valorizzi. L'esigenza può assumere aspetto diverso a seconda del temperamento spirituale del credente, Così può riferirsi particolarmente al contenuto oggettivo della vita religiosa della comunità, ai pensieri che permeano quest'ultima, all'ordine dei suoi mezzi e scopi, alle prescrizioni, regole, leggi stabilite, alle azioni da compiere, ai doveri e diritti, e via dicendo. Rinuncia e contributo, come fu detto più sopra, assumono di conseguenza un carattere oggettivo. Il singolo deve rinunziare a pensare a modo proprio e a percorrere vie proprie, giacché deve perseguire fini e intenti e seguire pensieri e vie che la liturgia gli propone. Deve rinunziare per essa a disporre di sé. Deve pregare con gli altri anziché procedere per conto proprio, ascoltare anziché riflettere tra sé e sé, attenersi alla norma anziché muoversi secondo il proprio volere. Compito dell'individuo è inoltre di realizzare il mondo delle idee liturgiche. Deve uscire dalla cerchia consueta dei suoi pensieri e appropriarsi un mondo spirituale più vasto e comprensivo. Deve andare oltre i suoi scopi personali per accogliere le finalità formative della grande comunità liturgica umana. Così vien da sé che il credente debba partecipare a esercizi che non corrispondono alle particolari esigenze da lui sentite in quel momento, che egli debba pregare per cose che immediatamente non lo toccano, accogliere ed esprimere a Dio nella preghiera istanze che gli sono estranee e che sono determinate dalle necessità della Chiesa universale. Deve certo, infine, e questo è inevitabile in un organismo tanto riccamente dotato di preghiere, azioni, simboli, talvolta anche seguire cerimonie che non comprende nel loro specifico significato oppure non intende interamente. Qui si presenta effettivamente un grave problema, doppiamente sentito dall'uomo d'oggi che tanto difficilmente rinuncia alla propria indipendenza. Giacché questi è sì pronto a inserirsi nel sistema dei vincoli dello Stato e della vita economica, però tanto più suscettibilmente e appassionatamente rifiuta di regola la propria vita religiosa secondo norme che non siano quelle delle esigenze più personali. Quanto la liturgia richiede si può pertanto esprimere con una sola parola: umiltà. Umiltà come rinuncia, cioè sacrificio della propria autorità e indipendenza, e insieme umiltà come contributo, cioè accettazione di un contenuto di vita religiosa già dato, oltrepassante l'ambito di quella personale. L'esigenza sociale della liturgia assume un altro aspetto per quelle persone che nella vita sociale vedono meno il lato oggettivo che quello personale o soggettivo, l'uomo vivo e operante. Il problema più grave della comunità per costoro non è già quello del come far proprio il contenuto spirituale, oggettivo e universale della vita associata e inserirsi in essa. Più gravosa essi sentono l'esigenza della vita comune con altri uomini concreti, la necessità di dilatare l'intimità tutta personale del loro sentimento ammettendovi altre persone, condividendone i sentimenti e le aspirazioni, riconoscendosi e sentendosi tutt'uno con esse in un'unità superiore. L'unione, invero, non con questo o con quello, oppure con una piccola cerchia di persone a cui ci leghino uguali interessi o rapporti personali, bensì con tutti, anche con persone che ci riescano indifferenti, antipatiche o addirittura ostiche. L'esigenza qui è dunque di abbattere in certo qual modo i limiti che proprio chi ha una sensibilità più delicata ha segnato tanto nettamente intorno alla sua vita religiosa, di uscire da essi, entrare nella folla, prender parte alla sua vita. Mentre nella forma di rapporto esaminata più sopra la comunità era sentita come un grande ordinamento oggettivo, qui invece essa è sentita come un vasto tessuto di rapporti personali, come un intreccio infinitamente vario di rapporti tra io e tu. Là era richiesto il sacrificio della rinuncia all'autonomia personale nell'attività religiosa. Qui il sacrificio del proprio isolamento, di quello stare a sé che compete alla vita personale. Là si trattava di inserirsi oggettivamente in un ordine stabilito, qui di vivere insieme con altri uomini. Là si richiedeva umiltà, qui si esige carità, un generoso aprirsi agli altri. In quel primo caso occorreva far proprio il contenuto spirituale presentatoci dalla liturgia. In questo secondo occorre partecipare alla vita degli altri membri del corpo di Cristo, includere le loro preghiere nelle proprie, sentire i loro bisogni come propri. Nel primo caso il noi era espressione di una oggettività dimentica di se stessa. In questo caso significa che colui che lo pronuncia estende agli altri il suo sentimento, accogliendo insieme quest'ultimi nella sua vita personale. Là bisognava vincere la superbia che vuol rimanere in se stessa, la grettezza del particolarismo che inorridisce al pensiero di far proprio l'ampio mondo dei fini e delle concezioni della comunità. Qui occorre superare l'avversione per la vita estranea, materiale, che si svolge attorno a noi, la ritrosia ad aprire la propria interiorità, il sentimento di aristocrazia spirituale, di chi vuol star solo con coloro che personalmente ha scelto, a cui spontaneamente si è aperto. Un costante spirito di rinunzia è dunque qui richiesto all'anima, un permanente uscire da sé per gli altri, un amore grande che sia pronto a partecipare alla vita altrui, a farla propria. Tuttavia, questo inserimento di se stessi è facilitato da una particolarità della vita della comunità liturgica. Essa forma l'antitesi che integra le peculiarità più sopra esposte. Chiamiamo individualistico, per fissare dei termini, l'atteggiamento spirituale da cui abbiamo preso le mosse. Adesso si contrappone l'atteggiamento spirituale sociale che ovunque spinge alla comunità, che vive nel noi altrettanto spontaneamente che quello nel chiuso io. Quando agisca nel campo religioso, questo atteggiamento sociale cercherà distinto persone dello stesso sentire, e invero questa propensione per la comunità religiosa sarà caratterizzata da un impeto che alla liturgia è estraneo. Basta solo ricordare le forme dell'influsso religioso e lo spirito di conventicola di certe sette. Qui i limiti tra le singole persone sono abbattuti al punto da violare e il riserbo intimo e talvolta anche quello esteriore. Questo indica naturalmente solo un estremo, che mostra però la tendenza inerente all'istinto sociale religioso di siffatti temperamenti. Costoro perciò non si troveranno a loro agio nella liturgia. Sentiranno nella comunità liturgica qualcosa di freddo e di compassato, dal che segue che la socievolezza della liturgia, per quanto piena e sincera essa sia, è ben lontana dall'esigere l'illimitato sacrificio della propria personalità. La tendenza che porta alla comunità è, nella liturgia, investita da una vigorosa controcorrente che assicura l'inviolabilità di certi limiti. Il singolo è certamente membro del tutto, ma non solo membro. Egli non vi si disperde completamente. Vi è inserito, ma in modo tale che egli tuttavia rimane quello che è, sussistente per sé, personalità che riposa su se stessa. Questo si manifesta particolarmente nel fatto che l'unione dei membri non ha luogo immediatamente tra uomo e uomo, bensì si compie nell'orientamento degli spiriti verso la stessa meta, nel loro riposare nella stessa finalità ultima che è Dio, nella medesima professione di fede, nel medesimo sacrificio, nello stesso sacramento. Del tutto eccezionali sono nella liturgia i casi in cui il parlare e il rispondere, il gesto o l'azione sono immediatamente diretti da un membro della comunità liturgica all'altro. E quando ciò ha luogo, è molto istruttivo osservare quanto riservati siano tali atti e da quali severe prescrizioni siano disciplinati. Il singolo non è mai tratto a contatti troppo familiari col suo vicino. È sempre riservata a lui la misura in cui ricercare la comunione spirituale in ciò che li unisce ambedue, vale a dire in Dio, che loro sovrasta. Questo è assai importante. Non è necessario descrivere ciò che avverrebbe se il sentimento della comunità liturgica si esprimesse immediatamente, senza regole, tra fedele e fedele. La storia delle sette è a questo riguardo assai ricca di esempi istruttivi. Perciò nella liturgia sono fissati dei limiti rigorosi tra persona e persona che diffondono sulla vita comune un sentimento sempre vigile di riserbo e la moderano in un mutuo rispetto. Nonostante ogni comunanza, l'uno non può mai violare l'intimità dell'altro, ottenere influsso sulla sua preghiera e sul suo agire, imporgli le sue peculiarità e la sua sensibilità. La comunanza sta nei sentimenti, nei pensieri, nelle parole, nel dirigere gli occhi e il cuore alla stessa meta. Essa consiste nel credere tutti alla medesima verità, nell'offrire tutti il medesimo sacrificio, nel mangiare tutti dello stesso pane divino, nell'essere tutti stretti in una misteriosa unità da un unico Dio e Signore. Tra di loro, però, come personalità determinate e concrete, non si usurpano reciprocamente il campo della intimità. È unicamente questo atteggiamento alla lunga che rende possibile la comunità liturgica, la quale altrimenti non sarebbe sopportabile. Per esso viene tenuto lontano dalla liturgia ciò che fa volgari. Esso non fa sorgere mai nell'animo il sentimento d'essere stretti a forza con altre persone, d'essere minacciati nella propria autonomia e intimità spirituale. Se dunque si esige dal temperamento individualistico che esso accetti il sacrificio di stare con altri, così al temperamento socievole si chiede che si adatti al contenuto riservo di questa vita collettiva veramente distinta. Mentre i primi debbono apprendere a frequentare gli uomini e a riconoscere che essi sono soltanto uomini tra uomini, i secondi imparino a comportarsi in quel modo distinto e contenuto che si conviene nella casa dell'Altissima Maestà Divina.